Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro. Le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. L'estate addosso, il ghiaccio a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri. Ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive. 800 24 00 24. Oggi facciamo revival. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Bene, oggi facciamo revival, l'hai sentito, no? Era la hit dell'estate del 2015. No? Da oggi è ufficialmente estate. Abbiamo tutti i tasselli al loro posto. È ufficialmente estate, tutti i tasselli, a partire da questo. 10 minuti massimo. Ti mando la conferma. E la conferma è un po' diversa. No? Sì. Senti, c'ha mamma mia, ci tre pupette, c'ha mamma mia. C'ha mamma mia tre pupette, una panzaglia. Hai capito, Pier, hanno mangiato tre pulpette. Questo è lo scandalo, l'ultimo scandalo del calcio scommesse, la camorra. Non c'è estate senza scandalo, nel calcio italiano. Sì, questo è una cosa della quale faremo volentieri a meno. Ma però, perché? Insomma, eh. Come il sole, la spiaggia, lo scandalo. C'è questa vicenda, ovviamente dovrà essere chiarita, come spesso succede in questi casi, vedremo se finirà qui o se interverranno nuovi personaggi e nuovi capi di imputazione. Vecchia storia, c'è poco da aggiungere, si diventa retorici, gran peccato. Speriamo che facciano piazza pulita e che facciano giustizia. Soprattutto, intanto il procuratore della Federcalcio Palazzi ha avviato la procedura di apertura di un'inchiesta sportiva su quello che è emerso oggi dalla procura di Napoli. Abbiamo sentito lo stralcio di un'intercettazione, ma insomma lo avete sentito anche nei nostri notiziari e vedremo che cosa accade. Poi l'altro grande classico dell'estate. Ha fatto una buona partita il Milan, sono andato a fare i complimenti ai ragazzi. Come? Adesso vediamo, tutto vediamo. L'altro grande classico delle ultime estati sono i tormenti di Berlusconi. Qui l'abbiamo sentito sabato sera dopo la finale di Coppa Italia. Oggi Corriere dello Sport con Berlusconi che dice: i cinesi vogliono cacciarmi, io vorrei che loro mettono i soldi e io resto per 3 anni. Ma loro non vogliono. Questo onestamente più che cacciare significa vendere. Un vecchio tema. È un tema in realtà un dissidio fra una più razionale e una più sentimentale dentro la testa e dentro il cuore di Berlusconi, quindi non so come andrà a finire, ma è veramente sì che Cupido, ecco, come dice De Gregori in Un Guanto, grandissima canzone, cioè è questa roba qui, che sicuramente Berlusconi dentro di sé non ha voglia di mollare, perché lasciare il Milan significherebbe soprattutto lasciarlo in un momento come questo, in qualche modo offuscare quello che di meraviglioso ha fatto in questi 30 anni di presidenza, sarebbe chiudere male, avrebbe mille significati. Sarebbe chiudere prima di tutto, chiudere, accettare il passaggio del tempo, che è un argomento ovviamente malinconico per chiunque, non soltanto per chi non è più giovanissimo, e certamente questo insomma non è il momento ideale per farlo. È anche vero che ci sono tutta una serie di valutazioni invece razionali che spingono per una svolta di un tipo o di un altro, ma questo tra tutti i tipi delle svolte è la svolta che coinvolge anche Brocchi, lo chiediamo anche a casa: Brocchi sì o Brocchi no? 800 24 00 24. Io la metto meglio Brocchi di un'altra soluzione che non sia di altro profilo. Forse Brocchi si è anche guadagnato la conferma. C'è il terzo classico, ma prima c'è anche una notizia, un'indiscrezione sulla lista dei convocati per l'europeo di Conte, che arriva oggi, in queste ore, in questi minuti. Dovrebbe essere una lista allargata a 30, perché ci sono tutti i problemi fisici, dubbi su Montolivo e Thiago Motta. Quindi Montolivo e Thiago Motta dovrebbero stare dentro la lista dei 30. Dovrebbe esserci De Rossi, che se l'è guadagnata nello stage. Dovrebbero esserci anche Giorginio e Sturaro. Giorginio e Sturaro, che se Thiago Motta e Montolivo non dovessero far parte della spedizione per problemi fisici, potrebbero volare anche in Francia. Ricordiamo il 31 maggio la scadenza per la lista dei 23. A proposito di grandi classici, questo non è tanto un grande classico, però sono anche le ore di Ventura. Essere accostato alla nazionale fa piacere? Penso che faccia piacere a qualsiasi allenatore italiano, quindi dico solo delle banalità. Sono venuto qua con piacere perché per ritirare questo premio, visto che ci sono tanti altri premiati, vuol dire che è un premio abbastanza importante, quindi la cosa mi gratifica. Di tutto il resto è evidente che non sono in grado di parlare, se no è stato scritto di tutto e di più, concretamente non c'è niente, quindi vuol dire inutile parlare, perché parleremo del nulla e rischieremo di dire solo delle sciocchezze. Questo Ventura, domani il grande incontro con Tavecchio, oggi si è mosso il primo tassello ufficiale a metà mattinata con la risoluzione di Mihajlovic del Milan. Poi ci sarà Ventura che va alla guida della nazionale con Lippi a fare direttore tecnico, e poi ci sarà l'annuncio di Mihajlovic al Torino, perché gli accordi sono già stati presi. 800 24 00 24, c'è il traffico, torniamo dopo con un grande ospite, Eusebio Di Francesco, per farci raccontare la favola del Sassuolo. Tutti convocati. Pallone in profondità per Falcinelli. Falcinelli va a mettere questo pallone in mezzo. Sansone fa 2-1 al secondo della fine. 2-1 al secondo della fine. In corsa di Sansone, va Sansone, la palla in rete. Va in vantaggio il Sassuolo, è passato in vantaggio il Sassuolo con una perfetta esecuzione di Sansone. 20° minuto di gioco, Sassuolo 1, Juventus 0. È uno schema al limite dell'area e poi il gol di Duncan. Un missile terra-aria, non può nulla, Donnarumma. Sassuolo in vantaggio al 27° minuto. L'obiettivo è poi molto semplice: quest'anno l'Europa League e l'anno prossimo la Champions. Ci sono due modi per arrivare in Champions: o arrivare terzi in campionato o vincere l'Europa League. Adesso poi vediamo cosa deciderà di fare Eusebio Di Francesco. Pierluigi Pardo, hai sentito Squinzi? Sì, chiediamo, sì, glielo giriamo a Eusebio Di Francesco. Questo incarico da poco, Eusebio, che ti ha dato il presidente per la prossima stagione. Ciao, intanto complimenti. Buongiorno a tutti. Hai sentito? No? L'obiettivo quest'anno era l'Europa League, bravi tutti, l'abbiamo raggiunto. E l'anno prossimo bisogna andare in Champions. Ma l'ha detto Squinzi, No, ma Squinzi scherza, poi gli piace, perché lui vi prende in giro, gli piace scherzare. E Giocherellone è il nostro padrone. Però devo dire che la cosa bella del patrone è che scherzando alla fine si arriva ad ottenere quello che dice. Questo è un aspetto sicuramente stimolante e importante, però per competere a certi livelli bisogna fare un mercato adeguato e cercare di avvicinarsi potenzialmente a quelle che sono le squadre che sono lì davanti. Noi in questo momento non lo siamo ancora. E non scherzando, che obiettivo vi aveva dato a inizio stagione? Così parametriamo, che cosa possiamo aspettarci. No, ma noi da non Sassuolo. Abbiamo parlato di Europa League, perché sennò avremmo fatto anche altri discorsi, assolutamente. Però bisogna dire che abbiamo fatto un percorso straordinario di crescita, partendo da 3 anni in cui veniamo dalla Serie B, dove non abbiamo ancora un centro sportivo di appartenenza. Abbiamo sì lo stadio, però ci sono tanti passaggi da poter fare per diventare grandi. Secondo me stiamo andando sempre un pochino oltre quelle che sono le aspettative, ben vengano. L'unica cosa che dico sempre io è che bisogna avere grandissima, non dico umiltà, però fare passo dopo passo, capendo che noi quest'anno abbiamo fatto veramente tanto rispetto a quelle che erano le nostre potenzialità, avendo tanti ragazzi che venivano sia dalla primavera della Serie B e non giocatori di un certo livello. Pier? No, mi piace moltissimo, ti dico la verità, questa follia, lucida follia, diceva il presidente De Luca nel Siena tanti anni fa, a proposito della promozione in Serie A di quel Siena, e qui c'è una lucida follia, perché un presidente che sarà pure una battuta, ma dice una cosa del genere, innanzitutto contempla fra le ipotesi possibili il fatto che si possa vincere l'Europa League. Troppo spesso gli italiani negli ultimi anni hanno giocato l'Europa League come se non gliene fregasse quasi nulla, o comunque se fosse un obiettivo. Quindi io questo è quello che chiedo di Francesco, se invece nella gerarchia degli obiettivi da che parte si va, cioè immaginando che ci sia una corsa per andare in Europa League attraverso il campionato e un sedicesimo di finale di Europa League fra un anno, dov'è che fa turnover? No, devo dire che per me il turnover è un discorso che lascia un po' il tempo che trova, perché quello che io dicevo al patron, anche in generale, che chiedo la necessità, che io non sono d'accordo sul discorso dei titolari. Noi siamo una squadra e dobbiamo avere 25-26 giocatori in questa squadra dove tutti si devono sentire titolari. È normale che uno di noi può avere un occhio di riguardo per qualcuno o pensare che uno possa essere insostituibile. Se noi ragionare così non andremo da nessuna parte, perché vi assicuro che è fisiologicamente impossibile poter utilizzare un giocatore domenica, giovedì e con tutti gli impegni che abbiamo. L'ho fatto da calciatore, so che determinati ruoli devono essere intercambiabili e bisogna modificare, ed è fondamentale avere tanti giocatori di un certo livello, perlomeno dello stesso livello, per poter competere in tutte e tre le competizioni. Pensando di poter andare avanti, credo che Di Francesco non abbia ancora in mente che mercato gli consegneranno Squinzi e Carnevali, che abbiamo sentito ieri a questi microfoni, però ti posso dare un'anticipazione, Eusebio: che cosa non avrai dal mercato? In effetti il nostro organico in questo momento quest'anno non sarebbe stato all'altezza di poter fare un Europa League in maniera decente. Dovremmo in qualche modo adeguarci, siamo pronti a farlo e certamente non è che dobbiamo prendere Messi o Cristiano Ronaldo, ma comunque rinforzare la squadra per poter giocare poi soprattutto essenzialmente due volte alla settimana. Allora, Messi e Ronaldo no, Eusebio. Messi e Ronaldo no. Restano in Spagna, è un po' deluso, eh? Assolutamente no. Io dico sempre, no, per quello dico il ragionamento che noi dobbiamo essere lavorare. Io condivido il concetto di gestione, per quello parlare di obiettivi è sempre difficile quando si parte e si cerca di giocare con i giovani, che hanno delle qualità. Io ho chiesto la necessità di prendere dei giovani di qualità, che però dobbiamo sapere benissimo, l'ho detto anche l'altro giorno al convegno, che vanno aspettati. C'è un percorso di crescita per tutti, a partire dagli ultimi che si è parlato da tutti i giorni, di Politano, Pellegrini. Ricordiamoci da dove arrivavano, che percorso hanno fatto e che crescita hanno avuto. Ci vuole pazienza. Noi abbiamo la fortuna di avercela, però dobbiamo sapere che per poter competere a certi livelli, se noi prendiamo solo giovani di prospettiva, a cosina per strada possiamo lasciare, specialmente all'inizio. Invece noi vogliamo prendere, condividere il discorso giovani con della prospettiva veramente importante, perché non si può pensare che sta solo spenda 20 milioni di euro per prendere un calciatore. Non avrebbe una logica per quelli che sono gli introiti all'interno della società. Però magari ti aspetti qualcuno, una chioccia, un giocatore che abbia già un'esperienza, perché poi l'Europa League si fa anche in poche settimane, comincia ad andare male, insomma c'è bisogno di qualcosa oltre i giovani di qualità o no? Sì, potrebbe esserci, però bisogna essere l'occasione giusta con lo stimolo giusto, perché andare a prendere giocatori che guadagnano, che hanno guadagnato già tanto, mentalmente non hanno quell'approccio giusto a un determinato ambiente, a noi non servono, a me non servono. Io voglio gente motivata, voglio gente che ha la voglia di scendere in campo e di allenarsi con grandissima continuità, come l'ha fatto Cannavaro quando è arrivato, che arrivava dal Napoli, però si è messo a disposizione. Io voglio giocatori disponibili al sacrificio e al lavoro. Io penso che noi siamo arrivati a questi traguardi solo con, a partire da cosa? Dalla settimana di lavoro, dalla qualità di quello che facevano, dalla determinazione che avevano i ragazzi. Tanti sono partiti dalla C2 o dalla B dicendo che magari non erano nemmeno adatti a questo campionato, e abbiamo dimostrato, giocando da squadra, invece di poter ottenere risultati importanti. Per quello a me non cambia l'Europa League, i discorsi dell'esperienza europea. Io sono relativamente d'accordo su questo discorso, perché dico che ci vuole una squadra che giochi in Europa, che giochi adesso, che abbia un'idea e una mentalità, e noi ce l'abbiamo, è solo che dobbiamo riportarla anche in questi tipi di campionati. Pier. Sì, io ho una curiosità su quella piccola macchia che si è subito risolta dalla sua esperienza, nel senso che in questi anni meravigliosi del Sassuolo in Serie A c'è stato solo un momento di difficoltà, quello dell'esonero, quando poi è arrivato Malesani. Francamente no, fu un errore l'esonero di Francesco, lo possiamo dire senza se e senza ma gli chiedo se in quel periodo lì lui ha imparato qualcosa, ha capito qualcosa, è maturato ulteriormente, in che cosa è diversa rispetto all'inizio della sua esperienza. I risultati sono sempre in crescita, sempre positivi, però la sensazione è che anche lui si è maturato ulteriormente in questa stagione. In che cosa sei migliorato, mister? No, ma devo dire che è una grandissima verità quella che dici, perché io quando sento parlare di giovani allenatori alle prime esperienze, vi assicuro che si può avere grandissime qualità e grandissime idee. L'esperienza, la capacità di investimenti ti fa maturare in maniera impressionante. Per quello ci vuole esperienza per fare questo lavoro, ci vogliono dei passaggi, anche degli insuccessi, come sono successi a me, sono accaduti, che mi hanno fatto maturare tanto. E quell'esperienza lì per me è stato un momento di grandissima riflessione. Sono tornato con le idee non chiare, di più. E ho anche detto alla mia società che gli errori nascevano alla fonte, anche loro erano immaturi, perché magari io qualche anno di Serie A l'avevo fatto, loro di esperienza erano sempre pochissima, e ho cercato di mettere dei paletti nei confronti di alcune situazioni che non mi erano piaciute, e invece prima avevo cercato di gestire. Sono diventato un pochino più duro sotto certi punti di vista, meno, già sottostavo poco prima a tante cose, adesso ancora di meno. Sicuramente più maturo. Andare per la tua strada significa anche, come è stato nelle scorse settimane, forse dire no al Milan. Cioè, è stata solo allora, una suggestione, un'idea, dai, chiariamola una volta per tutte, tanto poi parleremo ancora i prossimi giorni del Milan. Anche perché ne abbiamo per tutta l'estate. Per mister, non è che c'è molta discutere. Cioè, il Milan è la squadra. Prego. No, Pierluigi, finisci, che mi aiuti. No, io ti dico che Milan è, secondo me, forse la squadra italiana che ha più di tutte una sorta di pregiudizio estetico. Cioè, è la società italiana dove, secondo me, l'elemento del tipo di gioco che viene fatto, forse è l'unica, un po' come succede nel Barcellona, ovviamente con risultati molto diversi, come succede generalmente in Spagna, è l'unica società dove c'è un aspetto estetico, dove l'elemento estetico può in qualche modo incidere nella scelta dell'allenatore. Detto questo, poi è chiaro, se si vince tutti felici, se si perde questo vale per tutti, però nel Milan, cioè, questo discorso un pochino vale. Insomma, tu sei perfetto, perché sei uno che gioca come era perfetto Sarri, cioè sei uno che anche in squadre teoricamente piccole ha giocato sempre un calcio offensivo, il famoso padrone del campo, padrone del gioco con la U, insomma, di Francesco lo fa. Quindi, adesso dici tutta la verità, vostro onore, prego. No, non ci sono una verità da dire, io dico solo che la mia società mi ha chiesto di dare delle risposte prima possibile, e io quello che un po' ho cercato di non andare dietro a tanti discorsi che ci sono stati su di me, vi assicuro che c'erano delle società che magari si sono avvicinate, ma io ho voluto continuare questo percorso con la mia società perché vedevo la voglia e le idee giuste. E poi sai che cos'è? Che quando è come una bella donna, no, io mi sento un mister, mi devo sentire desiderato totalmente. E in questo il Sassuolo mi ha fatto sempre sentire il proprio affetto, ma nello stesso tempo mi ha dato un po' carta bianca sotto tanti punti di vista, ed è quello un po' che vorrei sempre che fosse così, perché quando si dà fiducia a una persona la si dà in maniera netta. Io in questo momento mi sento la fiducia del Sassuolo, e sono da questo punto di vista caratterialmente un po' particolare, perché ho cercato di mantenere la mia idea e non sono andato dietro a chiacchiere e niente. Sì, siamo sotto borsa. Io ho l'ultima domanda che poi si fanno tantissimi tifosi, anche juventini. Magari l'Europa League può servire per tenersi Berardi, a proposito di giovani che devono finire un percorso di crescita. Ieri i Carnevali dicevano: lo so, è già pronto, deciderà la Juve. Tu cosa ti aspetti? Ma è verissimo, me l'hanno detto anche a me, l'altro giorno abbiamo fatto una piccolissima riunione prima anche che venisse fuori questo risultato. Ma glielo consiglieresti, Domenico? Resta qui un anno, facciamo l'Europa insieme, te ne vai via più forte, più maturo? No, non lo voglio fare, perché magari qualcuno può dire che io condiziono le sue scelte, e io non voglio condizionare magari le persone che gli sono vicine, che possono dire: il mister non gli ha dato la possibilità. Il mister è la persona più felice a vedere Zaza fare gol alla Juve e vedere crescere dei giovani che con me hanno fatto veramente una maturazione netta. Berardi è cresciuto tantissimo quest'anno, non ha espresso magari tutto il suo potenziale anche a livello realizzativo, però vi assicuro che è migliorato tantissimo dal punto di vista caratteriale, e di atteggiamenti. E questo io dico che per me Berardi, ma lo dico perché è un mio figlioccio, è un giocatore di altissima qualità e da grande squadra. È normale che poi ritengo che la Juve in questo momento sia la migliore, lo dimostra il campo, non lo dico, sia nella gestione sia in tutto quello che fa, la migliore squadra che c'è in Italia è la Juve. Loro hanno una prelazione all'acquisto, se non la faranno valere io sarò ben contento di tenermelo. Te lo tieni volentieri. Grazie Eusebio. No, grazie a voi. Grazie Eusebio Di Francesco. Tu che dici, Pier? Va o resta? Poi andiamo in borsa, così diamo anche le quotazioni di Berardi a Sassuolo e alla Juve. No, mi sembra sia chiaro. Sì. Sarà una scelta essenzialmente sua. Ci sono degli ottimi motivi per andare, non voglio nasconderlo, perché credo che se la guardare il giocatore sia, perché come sia difficile dire no alla Juve. Di contro ci può essere anche. Ci sono anche motivi per restare. Ci sono anche motivi per restare. Ci sono anche motivi per restare. Ma poi se guardi la stagione che ha fatto Zaza, per esempio, che certamente sarà una stagione di buon livello. Però magari in certi momenti avrà pensato, ma magari a Sassuolo può diventare protagonista di qualcosa di un po' meno storico, perché comunque dicevo subito un'altra cosa. Insomma, ci sono pro e contro, però che il giocatore sia pronto per una grande come la Juve non credo che ci siano dubbi. No, non ci sono dubbi. La mia personale è oggettiva. Certo, c'è la borsa 800240024, torniamo subito. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Parabrezza rotto? Carglass ripara, Carglass sostituisce. Convocati 800240024, siamo qui fino alle 15:30 del Mugello, della Domenica Nera di Valentino Rossi, tra l'altro con una persona che gli è molto vicina, della Domenica Nera di Vincenzo Nibali, con chi ha parlato insieme a Vincenzo parleremo a partire dalle 15, quindi vi invito anche a scrivere, a prenotarvi 800240024. Pierluigi Pardo, c'è l'elenco completo dei 30 azzurri preconvocati per l'europeo, allora se sei d'accordo lo leggiamo rapidamente. Vai. Poi c'è Andrea dalla provincia di Treviso, portieri Buffon, Marchetti e Sirigu, quindi direi che qui ci siamo. Difensori Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Ogbonna e Rugani, quindi tutto ruota sul blocco della Juventus, compreso Rugani. Centrocampisti Benassi, Bonaventura, De Rossi, Florenzi, Giaccherini, Giorginio, Montolivo, Thiago Motta, Parolo e Sturaro. Ma su Montolivo e Thiago Motta c'è un tweet della federazione che precisa che le condizioni sono da verificare. E poi sugli esterni Bernardeschi, Candreva, Darmian, De Sciglio, El Shaarawy e Zappacosta. Gli attaccanti Eder, Immobile, Insigne, Pellè e Zaza. Dunque fuori Pavoletti con i suoi 14 gol in questo campionato. Pier, questo è il primo taglio di Antonio Conte. La prima notizia è Pavoletti è arrivato un po' di rincorsa, ma era arrivato con un vento abbastanza preciso a favore, e in qualche modo Conte conferma la tendenza di queste primissime scelte, che è una tendenza diciamo un po' più legata ai rapporti e diciamo a chi ha costruito questa qualificazione. Anche lo stesso discorso sempre per esempio in Casatoro fra Belotti e Immobile, non c'è dubbio che Immobile, complice anche il suo infortunio che certamente non l'ha aiutato, fosse arrivato meno tonico rispetto a Belotti, no? Nel finale della stagione, però la scelta invece è andata a favore Ciro. Ha resistito alla suggestione dei gol imbarcati all'ultimo, cosa che spesso ha salvato, esatto. I nostri CT. Questo è coerente, insomma, diciamo, sì. c'è una logica. È disperatamente coerente, perché se dovessimo perdere anche Thiago Motta e Montolivo, uno dei due, ma adesso ne parliamo anche con un ospite. Andrea dalla provincia di Treviso, Andrea. Buongiorno e grazie per la convocazione. Io chiamavo per il Torino, anche se dopo aver sentito Di Francesco è sempre un piacere sentire parlare un allenatore come lui. Del Torino volevo sentire la vostra opinione su Mihajlovic come possibile prossimo allenatore se tutti i tasselli vanno al loro posto, perché penso che Mihajlovic anche dal punto di vista caratteriale possa essere un allenatore ideale per il Toro. E con la rabbia che deve avere in corpo dopo l'ultimo anno con il Milan, penso che potrebbe fare veramente grosse cose con il Torino. Volevo sentire cosa ne dicevate voi. Pierre. Sì, sono d'accordo, mi sembra che incarni perfettamente lo spirito del Torino, che sappiamo, insomma, vive di valori di un certo tipo, basati appunto sulla lotta, sulla forza, sul non mollare. Questa caratteristica è ciò che di positivo ha fatto vedere Mihajlovic nell'esperienza alla Samp, dove ha fatto sicuramente bene, e ha fatto bene soprattutto da questo punto di vista. Al Milan, dove c'era la necessità di alzare un po' la sicella dal punto di vista delle qualità tecniche del gioco, secondo me non si è visto molto. Non si è visto molto, appunto, che poi Mihajlovic ha avuto anche una fase virtuosa a un certo punto della stagione, proprio perché ha scelto una strada abbastanza provinciale, consapevole dei limiti della squadra, che in effetti c'è stato un periodo che ha ottenuto risultati un pochino migliori, salvo poi, con lei, anche io lo vedo bene. Lo vedo bene, certamente. Tra l'altro, Pier, così rispondiamo anche a un amico che ha scritto prima: ma perché secondo voi, secondo me, Brocchi merita la conferma, piuttosto che un salto nel buio? Ragazzi, Brocchi ha fatto più o meno a livello di andamento del Milan quello che ha fatto Mihajlovic, e tra l'altro in una situazione compromessa a livello ambientale, a livello di spogliatoio, come si è capito nell'ultima settimana. Però se la pensate diversamente, siamo qui, non c'è nessun problema. Gino da Milano, Gino. Sì, buongiorno. Io volevo fare una considerazione però su Berlusconi e i cinesi. Mi sembra evidente che Berlusconi i soldi li abbia ancora, ma altrettanto evidente mi sembra che nel Milan non li voglia mettere, e non li mette già da tempo. Credo che le metterebbe Berlusconi i soldi del Milan, poi il Milan è di fini, queste non di Berlusconi. Attenzione, questi soldi li ha messi, cioè la campagna acquisti dell'ultima estate è stata una campagna acquisti tutt'altro che povera. Poi si può discutere su come sono stati spesi, alcuni giocatori certamente non hanno confermato le speranze, però insomma sicuramente Berlusconi, ma non soltanto Berlusconi, tutte le società italiane, forse con la sola eccezione della Juve, sono un giro dietro, un passo indietro rispetto alle grandi del mondo, e questa è una storia che parla del capitalismo italiano, cioè le grandi famiglie italiane con il loro business, diciamo, di tipo tradizionale, non sono in grado di reggere il passo con i nuovi ricchi, con quelle persone, quei gruppi imprenditoriali che vivono di materie prime da altre parti del mondo, e le cui ricchezze sono smisurate al confronto di quelle italiane. Puoi fare televisioni, puoi fare macchine, puoi fare pneumatici, puoi fare tutta non puoi estrarre petrolio e gas vari, gas naturali. Esatto. Per cui questo è proprio oggettivo, e probabilmente per riuscire a mantenere quel tipo di livello che è stato in Milan per 25 anni, Berlusconi è in difficoltà, e a questo punto, piuttosto che un calo lento e malinconico, si può fare ma anche perché il calo lento e malinconico è già nei fatti, assolutamente, credo che sia visibile agli occhi di tutti. C'è il traffico, poi torniamo. Tutti convocati. Intanto mi scrive un amico su Twitter segnalandomi che i 5 nomi che vi ho fatto prima per l'attacco dei preconvocati di Conte, Eder, Immobile, Insigne, Pellè e Zaza, insieme dovrebbero aver segnato 19 gol contro ad esempio i 14 di Pavoletti, che invece è rimasto fuori. Adesso Giorgio De Luca controlla, rifacciamo le somme se è così. Matteo Marani, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ben trovati. Alla fine Conte ha lasciato a casa Pavoletti, ha lasciato a casa Belotti, ma lo sapevamo, ha rinunciato a sognare i gol dell'ultimo minuto. Non so tu che pensiero hai vedendo questa lista dei 30. Ma che certamente in attacco il problema si pone, perché abbiamo giocatori con, come ricordavi tu, con scarsa capacità realizzativa nell'anno, bottini molto esigui, aggiungo che alcuni di loro, cammin facendo, hanno perso addirittura il ruolo di titolare. Penso difficoltà che ha avuto Eder nell'Inter, Pellè nello stesso Southampton, Zaza che di fatto è una riserva Juve, quindi anch'io sono dell'avviso che almeno Pavoletti potesse avere un'opportunità. Pier, è evidente che non possiamo fare a meno di Thiago Motta e Montolivo oggi, per come siamo messi. Abbiamo scoperto in queste ore in realtà che il rischio concreto di perderli c'è. Sì, ma allora guarda, noi abbiamo in questo momento una clamorosa carenza dal punto di vista della punta centrale. Invece abbiamo una quantità di esterni, forse non ha mai avuto una storia nostra calcio negli ultimi anni, che però rischiano di fare un po' scopa l'uno con l'altro, anche perché poi chiaramente se tu vuoi giocare a tre dietro non puoi impiegarli. Tu dovresti giocare, allora, se parti dal presupposto, i tuoi punti forti sono due, la difesa e gli esterni offensivi. Se parti dalla difesa, decidi che decidono loro come vogliono giocare, e probabilmente giocano a tre, così come lo giocano a tre nella Juve, e da lì però inevitabilmente poi si va verso il 3-5-2, con il quale certi giocatori, un certo tipo di talento è più difficile da impiegare. Se facessi il ragionamento inverso, partendo dalla qualità veramente, secondo me, straordinaria degli esterni, perché di attaccanti esterni noi siamo veramente messi bene come forse non mai, da Al-Sharawi anche a Sansone, a Berardi, a Bernardeschi, allo stesso Candreva che può fare chiaramente quel ruolo, lo stesso anche Darmian, De Sciglio che abbiamo visto l'altra sera nella finale di Coppa Italia. Sì, De Sciglio lo vedo più come, chiaramente come esterno difensivo, però insomma allora però in un 3-5-2 alla fine, difatti quello è il reparto, così come Conte l'ha segnalato. Anche Insigne, me l'avevo dimenticato, anche Insigne che mette l'attaccante a fare l'esterno del 4-3-3. Detto questo, la scelta di Conte mi pare chiara, è la prima delle due, ci sta pure, perché comunque insomma partire da una difesa che dà queste garanzie è molto importante. Bisognerà trovare anche io non sono convintissimo della rinuncia a Pavoletti, perché appunto non essendoci questo grande talento, questa grande punta centrale, non ce l'abbiamo. Forse affidarsi su quello che in questo momento era un po' più caldo e sperare in un effetto, diciamo, Schillaci 1990, per capirci, nello stellone di un attaccante clamorosamente in condizione, questo poteva essere. Sì, ma Conte, da questo punto di vista, ha un approccio integralista. L'elenco di chi non c'è, ce lo segnalano anche degli amici: non c'è Gabbiadini, non c'è Pirlo, non c'è Giovinco, non c'è Antonelli, Matteo. C'è io non so, non c'è. No, Buonaventura c'è. Okay. È segnato fra i centrocampisti. Io butto lì una provocazione, Matteo Marani: noi arriveremo a luglio e non avremo mai avuto la possibilità di giudicare davvero come è stato Conte come commissario tecnico, perché ci sono troppe variabili in questo europeo, troppi infortuni, nessuno di noi potrà mai dire, qualunque sia il risultato, se Conte ha potuto o no giocarsela, se sia stato o no un buon commissario tecnico. No, io non sono del tutto d'accordo su questo. Io credo che comunque Conte arriva a completare un suo ciclo duro, e quindi da questo europeo noi un bilancio lo trarremo. Sì, gli sono mancati dei giocatori, gli stanno mancando dei giocatori importanti, però la base rimane, la struttura della sua nazionale rimane, quello che diceva Piera, anche la difesa, diciamo, è la miglior difesa nettamente del nostro campionato. Io credo che a livello europeo non ci siano difese tanto più forti delle nostre in giro. Quindi su questo io non sono riuscito a farlo. Sulle scelte degli esclusi è chiaro che Giovinco e Pirlo sono in un campionato, Giovinco è stato fatto seguire anche dal fratello di Conte, in un campionato di cui evidentemente Conte non si fida più sulla tenuta, sulla risposta da parte di questi giocatori. Sì, ci segnalano anche Okaka, tra gli esclusi, sì, 13 gol in Belgio in questa stagione, ma se volete andate avanti, 3-4-9-2-3-8-6-6-6-6. Scusami, sì. anch'io sono dell'idea, nel senso che sicuramente ci sono delle difficoltà, certamente, insomma, Verratti e Marchisio è un reparto. È un reparto, sicuramente. No, se venisse a mancare Thiago Motta, verrebbe a mancare anche il terzo delle tre possibilità di quel reparto, io... credo insomma che diventerebbe difficile ragionare su un disegno di squadra, posto che già oggi deve rifare da zero quasi il progetto, come testimoniano i 30 chiamati, perché non c'è nessuno che chiama 30 giocatori a meno di un mese dall'inizio dell'Europa. Ma infatti a me la cosa dei 30 chiamati non assolutamente, cioè, è una situazione abbastanza eccezionale ed è giusto che Conte si prenda tutto il tempo che può avere a disposizione per arrivare a una decisione definitiva. Sicuramente non è stato fortunato, questo non ci sono dubbi, però anch'io sono dell'idea che qualche certezza ce l'abbiamo, e segnatamente quelle due, cioè abbiamo secondo me un grande pacchetto difensivo e molta esuberanza negli attaccanti esterni. Riuscire ad accoppiare questi due concetti e farne una squadra che va fino in fondo è la grande sfida, è una sfida difficile, non è stato fortunato, però insomma è anche uno bravo, sta anche lì per dimostrarci che è bravo, quindi insomma io un po' di fiducia ce l'ho. Ci chiede un amico se Soriano c'è. No, Soriano è uno dei tagliati dallo stage che ha tenuto per questi giorni i giocatori a Coverciano. Prima di salutare per il GR, volevo chiedere invece a Matteo Marani che impressione ha avuto nel leggere oggi le parole di Berlusconi. I cinesi vogliono cacciarmi, su Brocchi vediamo, io vorrei restare ancora 3 anni presidente. Insomma, questa sensazione di una storia che sta davvero finendo in maniera triste, lenta, lunga. Sì, io credo che Berlusconi non voglia cedere, proprio personalmente, lui individualmente non voglia cedere. Credo che sul tavolo gli siano state messe tutte le proposte, portate tutte le proposte, evidentemente dall'entourage, dalla famiglia Berlusconi, ma che lui come Silvio Berlusconi non sia disposto e disponibile a privarsi del Milan. La leggo semplicemente in questo modo, e se vuoi anche da un punto di vista umano lo comprendo, perché al di là dei successi in politica, dei successi imprenditoriali, dove anche in quei settori diciamo chiaramente non è più il Berlusconi di qualche anno fa, il Milan ha rappresentato la sua sfera emotiva, la sua sfera affettiva, e credo che nei momenti di bilanci diventi la cosa più difficile staccarsi da quella sfera lì, e quindi secondo me proprio Berlusconi non ce la fa da un punto di vista emotivo a rinunciare al Milan. Chiaro che mettere in piazza in questa maniera così dura queste parole, come abbiamo letto oggi su Corriere dello Sport, di Berlusconi, sono cose che colpiscono. Certo, intanto sono 48 i gol della stagione dei 5 attaccanti, 19 nell'anno solare 2016. Questo è il conto esatto ricostruito dal nostro Giorgio De Luca. Della situazione del Milan abbiamo parlato, grazie Matteo. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Matteo. Ciao. Marani, c'è chi ci scrive: non ha senso convocare il Shaarawy per fargli fare l'esterno nel 3-5-2. Poi c'è chi dice: anche se mancherà Motta sarà una grande fortuna. Insomma, c'è chi propone il 3-4-3 per utilizzare gli esterni. Io ho l'impressione che Conte avrà molto da lavorare. Sì, ma il 3-4-3, sai, tu puoi anche dire: vabbè, facciamo il 3-4-3 invece del 3-5-2, così ci abbiamo. Però poi c'è un problema di equilibri. Perché per fare il 3-4-3 facendolo con degli esterni che siano anche offensivi, perché ragionamento proprio parte dall'abbondanza che ha in quel tipo di reparto, poi hai bisogno di 2 centrocampisti centrali. Ma anche perché non l'abbiamo mai retto in questi mesi, ecco, no? È inutile girarci intorno, non l'abbiamo mai retto il 3-4-3 e schemi simili. Ci dobbiamo fermare, grazie Piera, domani. Ciao. Grazie per Luigi Pardo. Dopo il GR, la grande pagina sul Mugello e sul Giro d'Italia. 800 24 00 24, prenotatevi, vi sentiamo. Finisce qua, senza recupero il primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pieno Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Cordialissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. State ascoltando un programma offerto da Parabrezza rotto? Carglass ripara, Carglass sostituisce. Convocati. Attenzione, lungo di Rossi che deve rientrare. No, ma ha un problema. E credo. Ha un problema Rossi. Sembrerebbe un problema di motore, esce del fumo bianco. Si ferma, incredibile, mannaggia. È sempre un peccato quando si rompe in gara, ma qui al Mugello, con tutta questa gente, in questa grande atmosfera, brucia ancora di più. Ma soprattutto brucia perché ero molto molto veloce e in gara mi sentivo bene, la mia moto andava molto bene e quindi avrei potuto lottare per vincere e sarebbe stato bellissimo. Intermedio di Estrella, Nibali, che è successo? Catena, andiamo da Gianfranco. Franco. E ora cambia la bici. Deve cambiare la bici. Non è la giornata per Vincenzo Nibali. Problema alla catena. È sceso Tosello, il meccanico della Astana, per cercare di rimetterla al volo. Invece ha dovuto cambiare la bici anche Michele Pallini, che è il massaggiatore di fiducia da sempre di Vincenzo Nibali. E ora qualcosa ha perso. Tanto ha perso. Tantissimo. Non deve perdere la testa. Il tifoso vuole sempre magari la vittoria, l'ultima speranza, e quello è semplice, però siamo persone, quindi c'è anche il momento magari che non è tutto va sempre molto bene, ecco, però... quindi siamo persone, si fa tanta fatica e va bene così. Scusa la domanda banale, ma il giro è ancora aperto? Guarda, non ho guardato neanche la classifica, sì, non 251. Ho guardato. C'è un bel distacco, va bene così. Brucia ancora la domenica nera degli italiani, di Valentino Rossi, di Vincenzo Nibali, che si sono giocati forse la stagione del moto mondiale, forse il Giro d'Italia, ma poi sentiremo, insomma, ci sono ancora gran premi, ci sono ancora tappe, ci sono ancora salite per provare a costruire qualcosa di meglio di questa domenica, che ha mandato in fumo un po' di progetti e un po' di sogni. 800 24 00 24, c'è qui Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Ciao Giovanni, un saluto a tutti. Reduce dalla domenica del Mugello, molti se ne sono andati dopo l'ottavo giro. Sì, quando è successo quel patatrac, la tragedia, Vale col fumo bianco, le colline si sono svuotate, è stato incredibile, davvero. C'è chi dice che non è un grande esempio di sportività. No. Dai, prendiamo una posizione. Io sono assolutamente d'accordo, perché lo spettacolo è lo sport. Poi se Vale è ancora meglio per noi, ma è lo sport, e l'ultimo giro dei due là protagonisti è stato l'apoteosi dello spettacolo. Questo è perché Vale richiama un pubblico despecializzato, che è un bene. Il rovescio della medaglia è che se non c'è lui se ne va. Se ne sono andati non gli appassionati di moto, ma solo i tifosi. Purtroppo via Vale sarà un po' come quando se ne andò a Tomba per lo sci. Si è sciolta la neve e non è più arrivata. Ecco, c'è un amico, Emi da Bologna, che scrive, così togliamo subito, sgombriamo il campo da qualsiasi retropensiero, che sia stato Lorenzo a sabotare il motore di Rossi. Non se ne sentono di tutti i colori, assolutamente, ma non sono neanche voci che sono corse. Ma no. Qui quello che stupisce è un marchio giapponese come Yamaha che sbaglia per due volte, perché il motore di Lorenzo nel prima e poi questo di Valentino non succedeva. A Vale non succedeva dal 2007 a Misano. Ed è molto strano. Poi sentiremo, perché abbiamo un protagonista con noi e ce lo faremo dire da lui, se qui Yamaha aveva portato qualcosa di speciale per l'occasione. Perché è molto strano questa difettosità, cioè non rientra nei giapponesi, nel loro metodo, però tutto può succedere. Quello che dispiace è che è uno zero dovuto alla tecnica, non a un errore umano. Sì. E quindi questo è uno zero particolarmente pesante, sì, pesante, perché non è come la Formula 1 che ogni tanto il motore ti tradisce, qui è più raro, l'hai detto te, 2007, cioè sono passati 9 anni, un'era geologica nello sport. Assolutamente sì. Aspetta che lo chiediamo a Silvano Galbusera, capo meccanico, ma è tanto altro, di Valentino Rossi. Silvano, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Ciao Silvano. Come può capitare che si brucino due motori? E aggiungo io, che sono un profano, ma perché deve essere quello di Valentino Rossi a saltare in gara e non quello di Lorenzo? Questo l'ho detto io. Più sfortuna che una coincidenza. I motori erano tutti già stati usati nella gara precedente, per cui era il terzo motore di tutti e due, e non aveva dato nessunissimo problema, anche perché i motori che abbiamo tolto avevano quasi il doppio dei chilometri senza problemi, hanno girato 2 giorni, per cui non siamo ancora in grado di capire cosa sia successo veramente. Dovrà essere analizzato il motore in tutte le sue parti e capire cosa è successo. Silvano, due cose, ma visto che aveva dato una visaglia al motore di Lorenzo, non sarebbe stato meglio, troppo scrupolo, sostituire anche quello di Vale per la gara? Nel senso, quello di Vale aveva molti meno chilometri di quello di Jorge. Jorge di solito lo usa sia il sabato che la domenica nelle qualifiche, e noi lo usiamo solo la domenica. E poi avremmo dovuto usare un motore completamente nuovo senza aver fatto nessun giro, per cui è ancora un po' più rischioso. Troppo rischioso. Senti, esatto. Una domanda che si fanno tutti gli appassionati veri: non è che qua Yamaha aveva portato qualcosina di speciale, aveva provato il jolly, l'asso nella manica? No. Perché tu sai benissimo che i motori sono chiusi, per noi lo sviluppo non esiste. sigillati. Per cui avremmo potuto provare uno scarico o qualcosa, ma niente è stato usato diverso dalle ultime gare. Ok, è solo sfortuna quindi. Sì, è solo sfortuna, sì. È una sfortuna, l'abbiamo sentito prima Valentino Rossi, che pesa tanto, perché pesa questo che è il secondo zero dall'inizio della stagione. Io non so poi ieri a caldo e anche qualche ora dopo come avete analizzato anche con lui, al di là della delusione. Ma ci sono due aspetti da verificare. Il primo che ci fa contenti è che Valentino era molto competitivo. Fin dal sabato era uno dei più forti, anche lì con Lorenzo ha detto, in televisione si è visto che io ogni tanto provavo, ma sinceramente ho provato solo al primo giro a passarlo alla San Donato, col resto quando sono andato lungo, perché il motore aveva già dato un problemino, si era aperta la frizione e era andato lungo. Ma lui ha detto, stavo lì a controllarlo, ne avevo un po' di più, a metà gara così vedevo le gomme come andavano, poi avrei superato e è andato. Certo, non avremo mai la controprova, ma secondo noi, secondo i dati, anche Lorenzo stesso ha ammesso che c'era un Valentino in perfetta forma, per cui... Sì, l'ha detto tra le righe, che insomma che probabilmente avrebbe vinto. Io sono da ieri pessimista, perché Roberto Ungaro mi ha detto praticamente che il mondiale è chiuso. No, con no, questo zero. Tutto ancora può accadere. Datemi speranze, datemi speranze. Chiuso no. Però... abbiamo fatto un terzo e sicuramente ci sono ancora 12 gare, è molto più dura. L'unica nota positiva che però sta sparendo un po' è che con le misne è un po' più facile commettere l'errorino con la gomma davanti. Esatto. È da capitare su una pista un po' più difficile per le gomme e capire cosa può succedere, ma chiuso no. Poi la grande differenza è che c'è Marquez quest'anno che va forte, Ha recuperato. Sì, ma fa piacere, ma secondo me... sono un po' di parte, ma Valentino era più forte di tutte e due ieri, per cui mi aspetto. Mi sarei aspettato una gara, non dico come Gerles, che forse se ne sarebbe andato dopo una volta capito la durata delle gomme, ma comunque. No, comunque hai ragione, Silvano, perché a occhio lo si vedeva proprio, perché ha fatto vedere la sua mezza moto per dirgli: guarda che ci sono e quindi ti sto gestendo. È quello. Quando la frizione è rimasta aperta, che lui ha fatto un lungo. Ed è il primo split, è passato con 0,5, due split dopo era 0,1 ancora, per esatto, cui gli ha recuperato 3, 4 decimi, sicuramente, esatto. Poi vale anche Lorenzo, ma sa bene come si deve affrontare la bucine e lì forse vale la pena entrare per secondo e non per primo. È un po' come la parabolica di Monza, vero Silvano? Lì è tutta, sì. E quindi... un po' di esperienza, bisogna cercare di capire la linea giusta e è importante essere dietro, vicini, per poi sfruttare esatto. Secondo me quello che è comunque anche da dire è che Marquez con quella moto inferiore ieri ha lottato tanto e lui non poteva giocare a entrare secondo alla bucine Marquez, perché poi non aveva il motore per agganciarsi a Lorenzo e giocare la scia, quindi aveva solo quella carta lì da giocare, vero o no? Esatto, hai detto bene, qui ancora la Honda era leggermente inferiore come velocità, come accelerazione alla Yamaha. E Marquez ha messo del suo, lo bisogna tanto, bisogna dirlo, perché bisogna dirlo, e per cui ha fatto un'ottima gara. Purtroppo per adesso l'Honda è ancora un pelino inferiore e il Jorge ha vinto. Purtroppo mica tanto per te, Silvano, purtroppo. No, che sei superiore alla Yamaha. No. Il contrario, 5 punti in meno, però. Senti, comunque Yamaha moto da battere, più bilanciata, quella che ha più cavalli, quella che li mette meglio in terra, a questo punto manca solo affidabilità, che non sarebbe mai detto dei giapponesi, Silvano. Ma infatti noi era l'ultimo pensiero, perché da quando ci sono io non l'abbiamo mai rotto. Valentino mi ha detto dopo la gara che si ricorda Misano del 2007, una roba del genere, per cui porco giuro, lo sport è così, è come dubitare della puntualità per uno svizzero. Sì, nel 2007 cosa c'era, le lire che... ancora cosa c'era nel 2007, la TV in bianco e nero, no, però non c'era magari l'HD, comunque due motori ravvicinati così, tutti e due il terzo motore, qualche pensiero di qualche fornitura di pezzi non all'altezza, difettosità di componenti, magari anche piccoli. No, ieri ho fatto un cattivo pensiero anch'io. Mi fate sentire Marquez dopo il Gran Premio? Oggi era Marquez style. No, oggi non pensavo al campionato. Ho visto che ha peccato anche che Valentino era fuori la gara. Ha detto, dai, mi la gioco. Alla fine si perdo 25 punti, lo perdo con Jorge. Ma qua la gente che ha venuto al Mugello ti fa Valentino, ma penso che lo spettacolo è stato bello. Allora, ieri ho fatto questo cattivo pensiero a proposito di Marquez Style, che a novembre io ero andato in vacanza per il moto mondiale convinto che il Marquez Style fosse restare dietro, studiare, aspettare, magari nemmeno tentare un attacco. No, no. Invece no, Marquez è capace di attaccare Lorenzo, no. Questa è una notizia. No, no. È il contrario. Giovanni. Perché lui ha buttato via forse il mondiale, buttato via, ha perso il mondiale, una delle ragioni perché non si è mai accontentato, è sempre andato a cercare il limite e spesso la Honda in quel momento non era al top e ha perso delle gare, ha fatto 5-6 ritiri. Sì. Secondo me Marquez normalmente va all'attacco, poi ultimamente ci ha sorpreso che è diventato anche un po' calcolatore. Sì, sì. In autunno calcola. Sì, ma il vero Marquez è quello di... Vi giro due domande, poi salutiamo Silvano Galbusera. Sì. La prima è Salvatore da Milazzo, no? Perso chi l'ha scritto, insomma, ma se nelle prossime due Valentino Rossi può in maniera ragionevole recuperare qualche punto, dando un'occhiata anche alle piste. Sì, perché sia Barcellona, poi Asse, ci sono delle piste ormai non si dice più favorevole, ma dove Valentino negli anni ha comunque fatto degli ottimi risultati. Anche l'anno scorso siamo partiti leggermente dietro, siamo arrivati vicinissime a Jorge, ad Assen poi ha vinto, per cui nelle prossime gare pensiamo e siamo quasi certi di essere competitivi come il Mugello. E questo era Matteo, e poi l'altro invece sulla Ducati, perché c'è insomma Iannone che è l'altro grande rimpianto di questa domenica del Mugello. Roberto ieri ci ha spiegato insomma che aveva ragione ad essere arrabbiato per essere arrivato sul podio. Beh, una Ducati che è andato velocissimo il venerdì, è una moto con il motore che ha, può giocare molto bene di scie, purtroppo ha sbagliato la partenza. Da uno Iannone ci si aspettava di più in una gara del genere. Dovizioso ha avuto problema al braccio, quindi ha dovuto mollare. Peccato anche per lui, perché è la pista di casa, conoscono molto bene, possono mettere per terra, sul suolo, i loro cavalli. Quest'anno sono stati molto sfortunati. Il risultato poteva arrivare ieri. Certo che stare lì davanti con Valentino e Marquez e Lorenzo non è facile, quindi sarebbe stato comunque un risultatone. Però insomma, ha torto questo amico che dice che la Ducati rischia di rimanere alla storia come un proiettile inguidabile. Cosa ultimamente dicevi? È migliorata molto, e visto anche il risultato che ha fatto l'anno scorso secondo Iannone, quest'anno anche Valentino ha detto che sarebbe stato della partita, per cui loro poi hanno la pista del Mugello come riferimento e avevano fatto un ottimo setting dedicato per quello, per cui erano pronti già dal venerdì e mi aspettavo veramente un Iannone della partita. Sei d'accordo anche tu, Silvano? Cioè, a me è un po' deluso, perché lì ci stava protagonista. Sì, sicuramente il problema, adesso detto, dalla frizione in partenza, sicuramente ha scombussolato un po' le carte, perché ultimamente in MotoGP, se non sei lì all'inizio, comunque fai fatica. È dura recuperare. E partendo dalla prima fila, con una moto come la Ducati, mi sarei aspettato quasi primo alla prima curva. Che potesse essere lì davanti con Lorenzo e con Valentino. Sicuro. Grazie Silvano Galbusera. Sì. Silvano, grazie, ciao. Grazie Silvano Galbusera. Ciao. E aspettiamo la domenica del grande riscatto. Grazie anche a Roberto Ungaro. Grazie a te, Giovanni. Noi ci sentiamo, perché ovviamente il racconto di questo mondo mondiale va avanti fino a novembre. Parliamo un po' di ciclismo. Pier Augusto Stagi, ciao Pier. Ciao, buon pomeriggio. A proposito di riscatti, senti, facciamo subito Ruggero da Padova, 800 24 00 24. Ruggero. Sì, salve, buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. Allora, due cose volevo dire. Sì. La prima, conoscendo Nibali, conoscendo la sua storia, sono sicuro che questa settimana, quella che verrà appunto, lui darà tutto. La squadra, tra parentesi, c'è, e non ci dimentichiamo che i due sono degli outsider, non hanno mai fatto podio ai grandi giri. L'altra cosa invece, l'altra così riflessione un po' più amara, è sugli iscritti a questo Giro d'Italia, ma soprattutto sugli iscritti nelle grandi gare a tappe. L'anno scorso Tinkov aveva messo, non so se era una buttata o meno, ma un premio di 1 milione di euro a quei corridori che avrebbero fatto le tre gare a tappe, Giro, Vuelta e Tour. Sì. Sinceramente io credo che debba essere rilanciata questa proposta, perché un Giro d'Italia in cui un po' la sfortuna dei ritiri, ma soprattutto un Giro d'Italia in cui, se guardo l'elenco dei primi 10 in classifica, a parte che c'è solo un italiano, ma gli altri sono nomi che io sinceramente lo seguo, ho i ragazzi che corrono anche in bici, ma io non mi ritrovo, cioè dove sono i Contador, dove sono i Froome? Dove sono, Pierre? Sono ad allenarsi in vista del Tour de France. E l'anno scorso Contador c'era, e quest'anno secondo me la partecipazione del Giro d'Italia è sicuramente più elevata rispetto a quella di un anno fa. L'anno scorso c'era veramente solo Contador e poi Landa, che era compagno in squadra di Aru, quindi sostanzialmente un corridore al servizio, quindi due protagonisti erano solo loro due. Quest'anno invece avevamo Landa, che poi si è sentito male, però era qua come capitano per il Team Sky, Vincenzo, poi Alejandro Valverde, poi Rafa Maika, Esteban Chaves, che è un ragazzo di 26 anni che sta entrando alla maturazione, e non sono d'accordo con l'ascoltatore dove dice ci sono due signor nessuno. Cruz può esserlo, il mistero, perché ha 29 anni, ha fatto sempre dei buoni piazzamenti al giro, però non è sicuramente un corridore con le stime del campione. Esteban Chaves ha tutto per diventare un grande corridore, è uno di quei corridori della scuola colombiana che può veramente far molto bene al Giro d'Italia e anche andare al Tour e quindi confermarsi. Sì, e usare il Giro come trampolino. Ecco, io credo che il Giro quest'anno abbia avuto, poi dopo la strada, ragazzi, è così, è sempre, è nella strada del ciclismo, che c'è la caduta, c'è il malanno, c'è la condizione che non ti sorregge, quindi parti con 10 protagonisti, con 10 big, e poi ti trovi che in realtà la corsa l'animano in tre. Ma questo avviene anche al Tour de France. Cioè, ma sicuro... Basta andare a vedere l'ordine d'arrivo dell'anno scorso. Sì, Pier Augusto, io so che tu tra una mezz'oretta parlerai con Nibali, però mi piace sapere da te che cosa ne pensi di questa frase che oggi riportano i giornali. Ha detto ieri sulla maglia rosa: non ha esperienza, non ha una grande squadra, finora ha sempre avuto una giornata nera. Insomma, l'idea è che ci sia una terza settimana di sorprese, di tentativi, di coraggio, divertente da seguire. Guarda, da un lato spero nella terza settimana, soprattutto di Vincenzo, che è uno che, come ha detto e ricordato giustamente, in quel caso sono d'accordo l'ascoltatore, farà di tutto Vincenzo per sovvertire la situazione attuale, per cercare di rientrare nei giochi, rischierà anche magari di perdere il podio. Ci sono tre tappe, Andalo, il Colle dell'Agnello venerdì, e poi ci sono quattro salite sabato. Lo spazio è questo. Soprattutto il fine settimana, anche se il lavoro deve cominciare sicuramente domani. Ma però è anche vero che Kruijswijk, non dimentichiamoci che l'anno scorso al Giro d'Italia ha chiuso la terza settimana in crescendo. Nella tappa del Mortirolo è stato uno dei pochi a non staccarsi ed arrivare con Landa, che vinse la tappa, e con Contador. È un corridore resistente che sta molto bene e moralmente al settimo cielo. Comunque vada, lui il giro l'ha già vinto, perché difficilmente, deve avere veramente una grande crisi, difficilmente perderà il podio. E quindi lui è già sereno a tutti gli effetti. Deve fare qualcosa di eccezionale, Vincenzo. Deve assolutamente trovare il guizzo. Il problema è che lo può fare... se le gambe ci saranno, lo sorreggeranno. Qualche dubbio c'è, hai capito? Non è solo dato da un problema della catena. Ieri la giornata è stata molto, molto amara, e quindi bisogna vedere come supererà la giornata di oggi e domani come si sentirà. Domani si può capire se ci sarà spazio, terreno e modo per poter a ribaltare una situazione che sembra assolutamente compromessa, se non addirittura chiusa. Però corridori e campioni di questa statura e di questo livello sappiamo anche che hanno una forza d'animo e un orgoglio eccezionale, e che quindi in qualsiasi momento possono trovare la chiave giusta per aprire anche porte che sembrano sbarrate. Non dovrà fare solo lui il lavoro, lo dovranno, e si deve sperare che lo facciano anche gli altri, perché se gli altri si accontenteranno di correre di rimessa, come Chaves, per dire a me basta il secondo, o anche Valverde, che è lì, Valverde ai piedi del podio, il quarto, o comunque addirittura si può limitare a fare una corsa su Nibali per portare via sperando che salti, e portare via il terzo posto, e beh, allora lì la situazione è complicatissima e sarà durissima, perché vuol dire che il peso della corsa sarà solo sulle spalle della Astana, sarà solo sulle spalle di Vincenzo, e allora ci vuole un Vincenzo super. Sì, ma se si marcano, il giro va a Kruijswijk, con buona pace del nostro amico che lo definisce un signor nessuno. Grazie Pier Augusto, a domani. Grazie a voi e a domani. Grazie Pier Augusto Staggi, noi ci fermiamo qui, io mi scuso con Vincenzo dalla provincia di Milano, domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binda in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani, dopo il GR delle 14, torna anche Carlo Genta. Ciao. Signori, alla prossima.